Siamo in collegamento telefonico con Michela Greco per parlare della mostra fotografica La strada da fare che si terrà all'InfoPoint Emergency di Roma dal 2 al 28 febbraio, una serata, quella di venerdì 2, che prevede anche un concerto. Intanto, Michela, ben ritrovata. Grazie, ciao. Allora, intanto partirei dall'attività di Emergency e spiegando anche un po' come funziona l'InfoPoint di Roma. Allora, Emergency, come sicuramente saprai e saprete, opera ormai da quasi 24 anni, nata nel 94 e da allora ha curato più di 8 milioni di persone. E da circa un anno, tra le tante attività che facciamo, oltre a quello che ovviamente, quelle che sono le attività sanitarie in giro per il mondo, nei vari paesi in cui l'associazione opera, tipo Sudan, Afghanistan, Iraq o anche Italia, oltre a quello ci sono naturalmente le nostre iniziative di sensibilizzazione e promozione di una cultura di pace. E dentro queste attività c'è anche il nostro InfoPoint, non c'è solo quello di Roma, c'è anche a Torino e a Milano, che è la sede, diciamo, centrale di Emergency, c'è Casa Emergency. E l'InfoPoint di Roma è nato, diciamo, all'incirca un anno fa, Sì. è il posto dove da qualche anno già si faceva lo spazio di Natale, ed è un luogo di incontro, diciamo, concepito per essere un luogo di incontro per venire a conoscenza di ciò che fa Emergency, per informarsi, aggiornarsi appunto sui suoi progetti, sulle missioni sanitarie e anche per eventi. Facciamo tante cose, abbiamo fatto laboratori d'arte per bambini, faremo una rassegna di film, concerti, appunto, mostre, presentazioni di libri. Nell'ambito di questa programmazione, che è sempre appunto l'obiettivo finale, è sempre promuovere una cultura di pace. Sì. E come dicevi, domani c'è l'inaugurazione di questa mostra che si chiama La strada da fare, e sono le foto che Marco Palombi, che è un fantastico fotografo che gira il mondo da anni, infatti oggi per esempio è ad Haiti, e io spero che domani il suo aereo non faccia ritardo, perché così riuscirà a essere in tempo con noi. E questo Marco appunto è un grande fotografo che fa reportage in tutto il mondo e ha fatto diverse missioni con Emergency. È stato per esempio l'anno scorso in Sudan per il decennale del nostro centro Salam di cardiochirurgia, è stato a fotografare gli sbarchi di Augusta un paio di anni fa e nel giugno 2016 è stato nel Kurdistan iracheno. Sì. E la mostra, La strada da fare, che inauguriamo domani, racconta proprio questo suo viaggio. Sono 16 scatti con altrettante storie dietro, che raccontano un po' la condizione di quel paese, in particolare i campi profughi. Lui ha ritratto in particolare i campi profughi di Ashti, che sono queste enormi distese di tende infuocate dal sole, che ospitano addirittura decine di migliaia di persone Sì. in questa, diciamo, sospensione che viene determinata dalla guerra. Quindi lui ha ritratto le condizioni di vita delle persone che vivono in questi campi profughi e anche la risposta che dà Emergency insomma, con le sue strutture sanitarie. Appunto, Emergency è presente in questi campi profughi per dare un sostegno sanitario. E anche in Iraq abbiamo, anche questo l'ha visitato Marco, un centro di riabilitazione a Sulaimania, dove le persone ferite o che hanno purtroppo perso una gamba vengono curate, e gli viene realizzata una protesi, e poi c'è anche un passaggio successivo, cioè spesso vengono formati a un nuovo lavoro che è quello di costruire loro stessi delle protesi. Quindi questo è diciamo, un percorso bello, che è una cosa che fa parte proprio dello spirito di Emergency, cioè di dare delle risorse alle persone, cioè non c'è solo la cura, ma è anche un modo per offrirgli proprio gli strumenti per rendersi dipendenti, in questo caso anche per lavorare, insomma, Sì. formarli per fare un lavoro che sia adatto, insomma. Michela, sono previste anche le opere di Fabio Magnasciutti? Sì, ci sarà una presentazione molto interessante secondo me. Fabio, come sicuramente sai, è un bravissimo illustratore, fa delle vignette veramente ficcanti e spesso si occupa di temi vicini ai nostri, insomma, legati ai diritti, alla guerra. Tra l'altro lui ha realizzato il calendario Emergency 2018, insomma, quindi è proprio un nostro grande alleato. E è anche amico di Marco Palombi, che non guasta, e quindi domani loro insieme presenteranno una sorta di racconto per immagini, alternando le fotografie di Marco Palombi e le vignette di Fabio Magnasciutti, per costruire un racconto che appunto parla dei temi della guerra, della pace, dei diritti e della dignità. E poi appunto ci faremo una chiacchierata con Marco, che ci racconterà tutte le storie che ci sono dietro alle foto che fanno parte della mostra La strada da fare. E poi, come avevi anticipato tu all'inizio, Fabio Magnasciutti suonerà insieme ad Alessio Morlia, che è l'altro componente dei No Giù. Faranno un concerto, insomma, l'hanno già fatto almeno altre 2 volte da noi all'Info Point, ed è proprio una cosa da belle toghe, appunto, sono molto emozionanti. Senti, gli orari? Allora, l'inaugurazione domani è alle 18:30, quindi dalle 18:30 insomma c'è tutto, proprio verso le più o meno, credo, un'ora dopo ci sarà il concerto. E poi la mostra è aperta tutti i giorni negli orari di apertura dell'InfoPoint fino al 28 febbraio. Per informazioni su quello che succede, tutti gli eventi che ci sono e ci saranno all'InfoPoint, si può andare sulla pagina Facebook Emergency InfoPoint Roma, lì viene aggiornato tutto e ci sono sempre le segnalazioni dei nuovi eventi. Ce ne saranno di molto interessanti anche prossimamente. Bene. Michela, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, un abbraccio.